inizialmente che ha. In FM, che è frequenza modulata, la spinta, toccando o facendo il lavoro che faccio io, va praticamente al massimo. E quindi cosa succede? Che dando la spinta sulla potenza, l'LC lavora ancora di più e quindi spinge di più. Se avessi avuto la stessa spinta anche in AM, col prefinale da 50 watt, quella radio fa paura, perché te lo posso garantire. Intanto col microfono che hai in FM la modulazione è equalizzata e non c'è dubbio che è meglio della mia, senza ombra di dubbio. Su quello non ci piove, Luca, perché è equalizzata. Lui sta usando un microfono parametrico, quindi la modulazione in FM è come tu vai in una radio privata e ti metti a parlare. Se parli in FM e poi parli in AM è completamente diversa. Siccome lui sta usando un equalizzatore, è chiaro che in FM la modulazione raddoppia, è molto più forte, mentre in AM rimane leggermente più bassa. È tutto qua il problema. Io sono contentissimo, Massimiliano, di quel lavoro lì, ma non contento, contentissimo, perché la radio è stupenda per me, sia in FM, sia in banda laterale che in AM. Poi, quello che dicono gli altri io lo rispetto, perché non voglio essere in contraddittoria con nessuno, però per il mio parere, per me va benissimo, al 100%. Io vi saluto a tutti, che è pronta la cena e ci sentiamo più tardi se ci siete. Ciao, buonasera, ti faccio io. Chi è? Io, non mi sento bene. Chi sei? Io, l'immenso, l'illuminato, Eugenio. Eugenio, non vai in radio. Come se non vai in radio? Ma si non mi fa. No, me l'ha detto visto che è passato pure i vacconi. Poi se non c'è il radio. Io ti sento basso di radio, poi non lo so se gli altri ti sentono. Buh. Massimiliano, lo senti Eugenio? Sì, lo sento, però non è centrato al 100%. Ciao Eugenio, buonasera, ti ho ascoltato. Sentirai mia figlia, mi appoggi. E sono con la webcam che stanno salutando tra madrine e nipote. Ciao Eugenio, buonasera. Sì, la radio non è che sia questa grande cosa. Ho messo un'altra batteria, l'ho trovato da qualche parte, ma sarà di nuovo la batteria, cosa mi gioco? Siete sul 10 in FM, giusto? Aspetta, aspetta, dai, che riprendo io. Ciao Eugenio, ciao Gianni, piacere averti riascoltato. Allora, ciao anche a Luca e un saluto a tutti i circolari, io vado a cenare. Sì, Eugenio, è bassa per me la modulazione, rispetto, devo sollevare il volume e riabbassare quando parla Massimiliano, capito? E Gianni e Luca. Dai, ciao a tutti, buona serata, ci sentiamo dopo se ci siete, altrimenti fatevi buona cena, buon fine settimana e alle prossime, ciao ciao. Positivo, vai, ciao Cla, buona cena, un abbraccio, un saluto al cuore familiare, ci sentiamo alle prossime, anche io domani lavoro, quindi se domenica sei libero ci facciamo un caffè, dai. Ok, vai Luca, per te il microfono. Ciao, buonasera, dai, ci sentiamo più tardi. Io adesso mi assento che ho un computer da fare, ci sentiamo più tardi, se ti sente, se no buoni. Sono qua in ascolto. Comunque ciao anche Eugenio, avanti, ripeto, Eugenio. Ehi, quindi non mi sentite? Cioè, sono basso in radio, Massimo, cosa mi dici? Aspetta, facciamo salutare Gianni, che era ultimo, vai, ripeto. 2, non è K2. No, riprendo io, allora, un secondo solo, scusami, ho già. Allora, di segnale sei 9 più 20, la radio rimane leggermente gracchiante, però sicuramente oggi tu hai trovato una batteria per quel microfono che non è al 100% secondo me, poi te ne accorgi dallo smitterino che c'è il microfono. Guarda un po' se è sul rosso, oppure come vai a modulare, quanto si muove, boh. No, sale di brutto la lancetta. Sale di brutto, anche se su del rosso, boh, ma non lo so. Me l'ha spinta in FM, Massimiliano, eh. Va bene, spinge di lusso. Ciao, praticamente quello che ti manca in AM, poi mi sento io, attenzione. Adesso ti ascolto in FM, per volte sono parecchino, ma la modulazione come deve essere in AM, uguale. Solo non esci, perlomeno Giusta, sì. E vabbè, ti ripeto, è questione di quel prefinale, capito? Se vuole sostituito, vuole portato, perché, ti ripeto, quello di Claudio, cioè il prefinale da 50 watt, questo ce l'ha da 25, quindi la differenza sicuramente è quella. Però io mi ha fatto ascoltare Claudio a casa sua e in AM io mi ascolto bene. Comunque va, poi giustamente magari non sarà a livelli dell'FM, però è abbastanza abbordabile, dai, capito tutto lì. Ok, dai, ciao Luca, buon di tutto, dai, avanti Gianni di Navizio. Aspetta, questo è il 430 in FM, o Luca, cosa c'ha questo di diverso? Aspetta, ripeti, scusa. Questo è il 430 in FM, non è il C80, questo è il 430 in FM. Questa è più spinta di modulazione. Visto, perché questa c'ha il prefinale da 100 watt e in FM sono esattamente a 150 watt. Aspetta, che microfono stai usando? Sempre l'MC60, io ne ho 4 MC60, uno per il C80, uno per il 430, no, ne ho 3, e l'altro, vabbè, ce l'ho di scorta, sempre MC60, non ho toccato niente. Sì, ma comunque, la modulazione di Massimiliano, come ho detto prima, è meglio per mio parere, per come lo sto ascoltando io, va bene in FM, va male in AM, però non ha spinta che in FM. Lascia perdere, adesso ti sto facendo la comparazione, il 430 in FM è più spinto del C80? Ah, allora, mi dovresti fare i passaggi entrambi, così capisco la differenza, vai, prova. Sì, io l'ho già sentito, per me questo è superiore qua. Tenendo conto che c'ho il Mickey Gain a 2, quello è a manetta, allora questo è il 430, ok? 430 in FM, adesso commuto, 430 in FM, aspetta. Tanto è bella, Massimiliano, va, veramente bella in FM, bella, bella, bella. No, io esco male, non ci credo. No, ti ascolto male, Cla. Ah, sono in AM, giusto, bravo. Questo è C80 in FM. Questa è bella, praticamente andiamo su Massimiliano, ecco. Cazzo, Matti di Zidi, allora mi ha detto che era meglio che sia di Massimiliano, di Isa. Questo è il 680, col prefinale da 50 watt, ok? Sono lì, se vogliamo essere pignoli, sono lì, non cambia assolutamente niente. Può essere sempre questione di timbrica, questione di spinta, questione di voce, però sono sempre lì le radio, capito? Non cambia molto. Quella di Massimiliano ha un equalizzatore parametrico in FM, che vuol dire molto, ma molto, molto, molto rispetto a un microfono normale come l'MC60. Quindi sono sicuro al 100% che la modulazione è molto più chiara la sua. Allora, aspetta, no. Allora, ma scusa, facciamo un passaggio un attimo. Allora, guarda a vedere, Luca. Un secondo solo, devi lontano un secondo. Vabbè, riprendi tu, Luca, con Claudio. Ecco qua, quello di dinamite, la vedi, la sta andando. Ah, gente, fate due, tu. Noi abbiamo bisogno di avvocati. Cosa stavo dicendo? No, intanto devo andare a mangiare io. Sono venuto proprio per farti questo passaggio. Ecco, questo è il passaggio col C80 sempre Kenwood. Mentre prima te l'ho fatto col 430, sempre della Kenwood. No, wow, sei stupido io a dirtelo, ma il padre che aveva fatto prima, però non risultava, cioè, è diverso. Adesso è bella, rosso, ma credi rosso, cioè, adesso va bene. Va bene, ok. Comunque sono radio tutte diverse, sempre con gli stessi microfoni e va bene così. Gianni Dinamite, riprendi, se no si Adira e Eugenio che ti abbiamo lasciato in bianco. Io vi saluto e buona cena a tutti. Avanti Gianni. Ciao. Grandi, ciao. Questo è Eugenio, che è a Porto Torrese. Hai visto quelli di Porto Torrese? Li temono, è inutile, li temono. Ciao già, ci sentiamo, ciao anche te, Cla. Ciao Gianni, ciao Jay, un abbraccio, ci sentiamo, dai, statemi bene che devo andare a mangiare, se no mi chiudi, no, che sono entrato per fare questa prova con Luca. Dopo, se ci siete, ciao a tutti! Ora anche io riprendo che è pronta la cena qua, dai. Ciao Luca, ciao Eugenio, ciao Gianni Dinamite, ciao Claudio, ciao i vari ascoltori. Magari dopo che ceno, se c'è qualcuno ancora, qualche passaggio me la faccio, dai. Va bene, buona serata a tutti, grazie per tutti questi controlli. Vai Luca. Vado anche io, mi sposto, vedo di mangiarmi qualcosa. Più tardi, ciao ciao. Ripeto, cioè io a Dinamite l'ho sento basso, basso, basso. Riprendi tu, io vado a mangiarmi qualcosa. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti, ciao Luca. Ciao Bulldozer. Ah Massimo, dopo ti voglio una cosa. Ho trovato un tuo sinonimo, lo dici? Un omonimo, un altro Massimo Bulldozer. Va bene, ciao anche a te, Dinamite, ci sentiamo, già ci vedremo quando scegli a Polottore. Ciao, e buona masticata a tutti. Ciao, Ale Prusso, ciao. Sempre ci sono, dimmi tutto. Posso, prima di chiudere, prova a passare leggermente il micchiette con la radio, un pochettino. Allora, il micchiette è già a metà. Ma dalla radio stai parlando? No, dalla radio, aspetta, l'ho messa a metà. Sì, dalla radio è a metà. E del microfono a manetta. Portalo un attimo il speaking della radio. Eccolo qua, a manetta. Questa manetta. Cazzo, ma che seguo la radio, lo vedi? Ah, ecco che c'è vivo, a me mi hanno detto terlo, mi avete detto terlo a metà, in AM. Ma cosa noi a metà, cosa a metà? Cazzo, ma mi seguo la radio. Ecco perché no, stavo andando chiuso, Dinamite. E hanno chiuso. Adesso ti ascolto bene, cazzo. Eri cracchiante, però sicuramente oggi c'hai la batteria che non è al 100%, Non sei proprio al 100% di modulazione, però cazzo, va per radio. Ho capito, lascio così anche in AM. Allora, lascialo così anche in AM, prova a passare in AM a vedere come ti ascolti. Vai. Ok, adesso siamo in AM, guarda un po' come fa, Una bomboletta, sì, una bomboletta. Allora lascio tutto così. Praticamente il segnale in AM cambia, perché se il 9.10 qua, se 9.10 invece se uno forme se il 9.20. Vabbè, quello non importa, però se mi ascoltate bene. Bene, ma il microfono è al massimo adesso? Sì, il microfono è al massimo, sì, al 9. Guardalo al massimo del tutto. Adesso è a manetta, al 10, non penso sia cambiato niente, ma... No, non è cambiato niente, da 9 a 10 non è cambiato, lo puoi lasciare anche a 10. Però guarda, se riesci a buscarti una batteria più nuova, diciamo. Sì, vabbè, la batteria devo cambiare, la batteria, dai, scarica. Vabbè, dai, oggi qua mi stanno la antenna, quasi nulla, no? Dai, ci sentiamo che mi mangio qualcosina, poi se ci siete ci scambiamo anche due chiacchierelle, dai, ok? Beh, un'ultima cosa Massimo, e poi chiudiamo. Ho trovato un altro Massimo Bulldozer, lo sai? Ma dove l'hai trovato? In Tirrenia è imbarcato, è un tipo alto, grosso, però è veneto. E si chiama Massimiliano Bulldozer al CP. No, perché no, ce n'è anche uno qua in Sardegna di Bulldozer, si chiama Claudio, fa l'ortita, c'è uno scania rosso, e poi ce n'è, vabbè, su internet ce n'è un altro ancora che si chiama Luigi Bulldozer. Vabbè, te lo puoi dire, dai, andiamo a mangiare, dai, ci sentiamo, ciao.